Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Come stai, caro chef? Come stai? Buongiorno a tutti, ciao Pier, sto molto bene. Abbiamo mangiato bene questa settimana. Abbiamo mangiato bene questa settimana e oggi siamo veramente di fronte a una delle regine fra le regioni italiane dal punto di vista enogastronomico, perché siamo in Sicilia e quindi è proprio è un trionfo barocco di suoni, di profumi, di freschezza. Ovviamente di gusto, di freschezza, di stagioni che si mescolano. E di grandi professionisti, direi, di cuochi grandi professionisti. Esatto. Perché, insomma, devo dire che è una delle scuole principali, no? Devo dire che ultimamente, negli ultimi anni, ha fatto un'impennata incredibile con tanti colleghi e soprattutto anche giovani colleghi. E queste persone hanno capito che hanno veramente l'oro in Sicilia su quello che riguarda appunto il microclima che hanno e i prodotti dal pesce alla terra, e sono veramente fantastici. Esatto, profumi straordinari. Vi ricordo tutti i nostri appuntamenti: la mail mangiacomeparli@radio24.it, l'SSoldani 3492386666. E cominciamo con un collega, un amico, una leggenda, un grande palermitano, Gianni Riotta. Come stai? Bene, ciao, bene, grazie, buongiorno. Buongiorno, ciao, anche interista, no, immagino. Anche interista. Se Dio vuole. Siete gemellati. Siamo gemellati. Senti, la prima Madeleine, il primo pensiero legato a Palermo, legato magari alla tua infanzia dal punto di vista gastronomico, qual è? Qual è la cosa proprio che metti in cima al podio? Se ti posso dire, è quello che un po' si è perduto, cioè che prima, quando ero bambino, io mi sono stato a Palermo sino alla laurea, e certi cibi e certi dolciumi e certe pietanze venivano servite solo e soltanto nel giorno della festa del Santo. I biscotti di San Martino, i biscotti duri con l'anice, venivano serviti solo l'11 novembre, rotti e inzuppati nel moscato. E Santa Rosalia? Santa Rosalia e lumache. Per il festino venivano servite le lumache, gli attuppatelli o i babbaluci, venivano serviti in strada. Tu, mentre guardavi la processione, e mangiavi i babbaluci, e mia nonna e faceva alla fine la gara, cioè la gara di chi aveva mangiato più lumache in 3 minuti, in 4 minuti, 5 minuti, contando il guscio delle povere lucche. Oppure, non so, i cannoli colorati soltanto per carnevale, la chiave dolce di San Pietro soltanto per la festa del 29 giugno a San Pietro, e la petrafendola, che è un buonissimo torrone con i frutti canditi, veniva solo fatta per la Madonna. Ecco, questo ovviamente si è perso. Oppure per dirti i babà, chiamiamoli babà, i bignè di San Giuseppe, solo il 19, a Palermo si chiamano sfingi. Allora, questo si è perso, perché qual era la bellezza? Che tu lo mangiavi goloso quel giorno e poi sapevi che dovevi aspettare un anno per rimangiarlo, e quello era molto bello. Il far senza, poi è un'altra cosa molto importante, che prima il panettone, fino a qualche anno fa in Sicilia non si faceva, adesso c'è una grossa produzione di panettone che veniva mangiato solo a 10 giorni di Natale a Milano, e adesso troviamo il panettone ovunque. Sempre, e soprattutto perché fatto molto bene, devo anche dire, molto sì, molto bene. Esattamente. Per cui, Gianni, è una cosa positiva, secondo me, nei nostri tempi, avere questi ricordi e ripeterli magari nell'anno più volte, oppure era meglio prima, quando aspettavi, mangiavi e poi lasciavi in disparte per ancora un anno? Ovviamente è bene averlo sempre, perché questo è il nostro tempo. Naturalmente l'ascesi, la rinuncia ti provoca sempre un aumento del piacere. Devi tenere presente però che quelli che si lagnano, no, Halloween, ci hanno colonizzato gli stranieri. Bene, e la cucina meridionale, la cucina siciliana, è frutto della globalizzazione, perché certo, al centro della cucina siciliana Couscous, c'è il riso, che viene dagli arabi, sono che portano il riso, diciamolo per tutti i tuoi ascoltatori, il riso che si mette nelle arancine Meravigliosa. Qual è il segreto per la norma, Oldani? Io lì devo, sono attaccato molto alla tradizione, per cui per me melanzana fritta ci deve essere. Anche se sai come la penso io, Pier, l'avrei fatta seccare un po' in condita con un leggero velo, fritta su una pasta, un bucatino o comunque una cosa molto sostanziosa. Che è decisiva, no? Perché Farei come piatto unico, io direi, tra formaggio, pasta. Fatti i fatti tuoi, cioè, poi se uno piatto unico, se uno vuole fare il piatto unico, se uno vuole fare il piatto triplo, poi fa quello che però melanzana fritta tutta la vita. C'è questa, c'è una corrispondenza fra la meravigliosa arte barocca di Sicilia e la cucina siciliana? Cioè, sbaglio se dico che è una cucina barocca, che è una cucina proprio di abbondanza, di opulenza, di sapori, è una cucina espressionista quella siciliana. No, guarda, c'è uno stupendo libro che purtroppo non è mai stato tradotto in italiano e me ne rincresce, forse la vostra trasmissione è la volta per dargli una chance, di una signora americana, Mary Taylor Simeti, che ha vissuto tutta la vita in Sicilia, era, pensa, la figlia del direttore del Metropolitan Museum, una signora della grande aristocrazia newyorkese, è venuta a fare la volontaria nella Valle del Belice con Danilo Dolci per aiutare i contadini poveri, e ha raccolto tutta la storia della cucina siciliana, e si chiama Pump and Sust, 3.000 anni di cucina siciliana, e dice fondamentalmente questo: la cucina siciliana è fatta da pump, cioè da pompa, da grandi aristocratici, no? La cucina, come dicono, dei Monsù, cioè i monsieur, i cuochi che la famiglia aristocratica, la Gattopardo, facevano venire a cucinare, e poi c'era invece la sopravvivenza, che era la cucina povera dei contadini. Quindi ce l'hai tutte e due, c'è il famoso timballo di maccheroni con i tartufi che descrive Tomasi Lampedusa, il Gattopardo, che è sicuramente un piatto barocco. Poi però una volta Rai Storia intervistavo Heinz Beck e gli ho chiesto qual è il suo piatto preferito italiano, e lo chef mi dice, Heinz mi dice, la pasta col pomodoro. Io ho detto, sì chef, però dammene un altro, la pasta col pomodoro è ovviamente esatto, un po' tipo... E lui mi ha completamente freddato e mi dice, la pasta con i tenerumi. Ora, la pasta con i tenerumi era l'incubo della mia infanzia, cioè la pasta fatta, è un cibo poverissimo, con le foglie delle zucchine locali che sono particolarmente ruvide, particolarmente spinose, che però i poveri bollivano fino a che non diventavano commestibili. E il Heinz Beck, chef stellato, dice è il piatto più buono perché sua suocera, che è siciliana, gliel'ha insegnato. Mia madre, che allora guardava la storia, mi chiama immediatamente e mi dice, sei un cretino, da bambino non volevi mai mangiarla, quando ti dicevo io che è un piatto straordinario non scappavi, adesso che lo dice Beck lo mangi. Senti, non è vero, ci sono anche le sarda beccafigo di Camilleri, fra le varie cose che mi vengono in mente, no? Sì. Che sono meravigliose. Sì, le sarde al beccafico per esempio sono un piatto povero, perché adesso è un piatto che servono anche da Ciccio Sultano, da Gigi Mangia, dal Bavaglino, dei grandi chef siciliani, però se ci pensi sono imbottiti di pan grattato. Perché? Perché con una sarda, che era un cibo povero, era un pesce azzurro povero, imbottendola di pane grattugiato tu la rendevi più di sostanza. Se prendi i celebrati involtini siciliani, che sono di nuovo pezzetti di carne imbottiti di pan grattato, a che serviva il pan grattato? Siccome c'era poca sostanza, c'era poco pesce, c'era poca carne, aggiungendo il pan grattato ne aumentavi la commestibilità. La resa. La resa, quindi è sempre una cucina povera. E guarda che comunque dal barocco al futurista, che poteva essere la forma della cucina siciliana, si è passati a una cucina nuova siciliana, che è veramente fatta in punta di piedi, con un'eleganza e una leggerezza, che è la leggerezza di cui abbiamo bisogno per poter vivere bene al giorno d'oggi, perché anche le sarde a beccafico presentate in più situazioni o da grandi chef siciliani sono una lavorazione su quello che è il procedimento della ricetta, per cui certo, l'ingrediente è rimasto tale e tutto quello che si è evoluto è il know-how della ricetta e dei cuochi che giovani che studiano per applicarla alla tradizione. Assolutamente, ripartiamo da qui chef, anche perché fra poco abbiamo la tua prima ricetta, fra un attimo. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, Mangia come parli, puntata dedicata alla Sicilia, devo dire, puntata straordinaria, ricchissima, ricchissima, che vive di questa fantastica dicotomia fra appunto la ricchezza, fra il gattopardo da un lato, fra i grandi chef, i grandi ingredienti, e poi anche la cucina del popolo, della sopravvivenza, che è straordinaria. Fra poco ci facciamo dei bucatini marsala, pane e pepe, dello chef Oldani. O le olive infornate prima, poi c'è la pasta spezzata, c'è di tutto. Però prima, Gianni, tu sei metà siciliano, metà americano. Mi racconti, insomma, come vive un siciliano in America? E soprattutto negli ultimi anni c'è stata una crescita nella cultura, nella percezione, nella sensibilità rispetto alla qualità nel cibo in quel paese? Per quanto riguarda le provenienze geografiche, è ancora più complicato, perché in realtà la famiglia di mia mamma ha origini milanesi, quindi mia madre faceva il risotto alla milanese, i miei compagni venivano a mangiarlo perché allora il risotto era completamente all'ossobuco, erano piatti completamente sconosciuti. E in America, quando sono andato in America per studiare la Colombia, l'unico olio, c'erano soltanto due oli d'oliva, Sasso nelle lattine verdi famose e Goya, che era uno spagnolo a buon prezzo. Noi che eravamo poveri compravamo l'olio Goya. Oggi se tu vai in un supermercato americano trovi oli liguri, oli siciliani. E poi extravergine, non più tutto, l'oliva e basta. No, ecco. Esattamente. E la cosa comica è che io vado a casa di un mio amico e vedo una bottiglia d'olio toscano, una bottiglia d'olio siciliano, una bottiglia d'olio ligure. Allora io dico, ma che te ne fai tutte queste bottiglie d'olio? Dice, dipende, se faccio il pesto uso quello ligure. Fantastico. No, allora ho detto, scusa, e lui mi ha detto, io l'ho guardato come dire, sei pazzo. E dice, ma perché voi italiani non fate così? Io dico, no, guarda, noi italiani abbiamo una bottiglia d'olio, e compriamo quello che ci possiamo permettere migliore e con quello cuciamo tutto. Quindi poi gli americani in questo sono fantastici, mangiavano schifezze, perché pensa che un'amica mi disse una volta, quando io facevo la spesa da bambina con mia madre, non c'era nulla di fresco nel carrello, erano solo scatole, surgelati, cibi preparati, non c'era nulla di fresco. Quindi questo è cominciato adesso e sta cambiando moltissimo. Poi loro lo fanno con mania. Oggi si mangia bene in America, la cucina siciliana è affermata. Poi c'è la cucina italo-americana, sulla quale veramente varrebbe la pena che voi faceste una vostra puntata, perché è una cosa diversa. Io dico sempre, non è la cucina italiana, perché gli italo-americani erano poverissimi, e quindi quando poi sono arrivati al benessere, il ricordo, hanno semplicemente messo più salsa, più carne, più parmigiano, più ingredienti. Però è anche un'altra cucina interessante. Sì, Gianni, è vero, però se andiamo a vedere nelle grandi città americane, posso parlare di Chicago, di New York, di San Francisco, c'è adesso veramente una cucina italiana di un livello esagerato, perché hanno capito che il fresco, qualcosa di fresco, di prodotto del appunto americano, lo trovano e poi attingono ad alcuni prodotti italiani che possono sostenere il viaggio, per cui poi c'è la conoscenza del cuoco italiano. E adesso, secondo me, io ho assaggiato una pizza poco tempo fa a New York in una piccola pizzeria che aveva il diametro giusto, il cornicione come fanno a Napoli, era una cosa fantastica, per cui adesso secondo me la cucina italiana sta veramente prendendo il piede. No more fettuccine Alfredo, no more. Fettuccine Alfredo è veramente una cosa vecchia, credo che non ci siano più. Ci sono ancora, ma pensa che io quando arrivai in America non riuscivo a convincere gli amici che in Italia non è che tu dici, mamma, mi fai il fettuccino Alfredo? E allora un cameriere arrabbiatissimo mi portò la cartolina del ristorante Alfredo famoso a Roma, a Largo Augusto Imperatore. E io allora lavoravo al Manifesto, lavoravo in via Tomacelli, quindi ero passato centinaia di volte davanti all'Alfredo originale, come si chiama, senza mai entrarci. Vabbè, i pistacchi, dobbiamo dire qualcosa sui pistacchi, Riotta, non so, vuoi fare una chiosa finale? C'è qualcosa di cui ci siamo dimenticati? No, i pistacchi di Bronte, come sapete a Bronte ci fu la famosa rivolta dei contadini, è repressa purtroppo da Nino Bixio e che macchiò l'impresa dei garibaldini con questa impresa poco nobile. Il pistacchio oggi è protagonista di tutta la gamma, perché dall'aperitivo, dai bar tipo Attaboy in America, che sono i bar trendy, a invece la parte di dolce e poi il pesto trapanese che è a base di pistacchi. Il pistacchio è veramente ubiquo. Grazie professor Riotta, grazie a voi. Il benvenuto a Martina Liverani, che già ci sta ascoltando, direttrice editoriale di rivista Dispensa, che devo dire è un quadrimestrale, giusto? questo, di generi alimentari, generi umani, con delle cose divertentissime, col crowdfunding, con la carta che carta avete voi? Ciao Martina, Martina, buongiorno, ciao, e grazie, ciao, di essere con noi. Ciao, grazie a voi. È una carta speciale ottenuta dalla lavorazione degli scarti alimentari, e quindi insomma è una carta di riuso, ma è un genere alimentare anche la carta, e come hai detto tu, su Dispensa raccontiamo storie di generi alimentari e di generi umani. Esatto. Quindi il nome Dispensa, questa è una domanda che volevo farti da tanto, da quando leggo la tua rivista, fantastica, etica, insomma, tutte le... Dispensa da dove arriva? Da una... Dispensa è una... diciamo è un po' un gioco, no? Perché ha un doppio significato. Pensare. Da un lato è la dispensa che noi abbiamo in cucina, esatto, no? Piena di cose buone. Dall'altro è un termine, se vuoi, un po' universitario, no? Che è un po' indica l'approfondimento, le dispense dove si approfondiscono, certo, vari argomenti. Quindi insomma voleva dire un po' entrambe le cose, in più è un nome un po' così desueto, se vuoi, un po' antico, e mi piaceva come poi è un po', se vuoi, antico la carta, che invece poi si è rivelato essere un mezzo super attuale e contemporaneo per raccontare le cose. Volevo che Caldani cucinasse un po' per noi, perché ancora è ferma zero ricette. Io volevo ricette. Che dici, Martina, ci sentiamo queste olive infornate, origano e polvere di cacao? Chef, sei pronto? Ma sono molto semplici, anche perché possono essere utilizzate come stuzzichino. Poi ho aggiunto a queste olive un tocco di nuova Sicilia, di un nuovo prodotto siciliano, anche se viene dall'Oriente, che è il caviale di limone, che è questo finger lime che chiamano, per cui apri questo caviale, hai questo limone piccolissimo, tipo un dattero per capirci, togliamo appunto queste piccole palline di limone che ricordano il caviale, però dentro sono molto aspre. E poi le olive infornate sono classiche siciliane, togliamo il nocciolo, denoccioliamo per bene, facciamo appassire leggermente in padella, in una padella antiaderente, per cui perdono un po' l'acqua di vegetazione, si intensifica l'amaro e il gusto. Spolveriamo con pochissimo zucchero, lasciamo caramellare leggermente, sempre a fuoco molto lento o su una piastra in induzione veramente bassa di temperatura. Dopodiché, più o meno 15 minuti, leviamo dal fuoco, spolveriamo e massaggiamo queste olive con le nostre mani, spolverando appunto con una polvere di cacao amara e un leggero tocco di polvere di origano. Sono, naturalmente, io le consiglio con un buon vino siciliano, anche una buona bollicina siciliana, per cui possono essere piazzate all'inizio di un pranzo o di una cena. E il finger lime serve poi per dare quel tocco di acidità che va a contrastare la parte amara e grassa dell'oliva. Allora, ci dobbiamo fermare, ma continuiamo ovviamente con la nostra ospite Martina Liverani fra un attimo. Ricordiamo che questa è una delle eccellenze, ma non solo una delle eccellenze, è una delle cose più originali, più innovative. Provincia di Agrigento, ci sono questi primi campi per la coltivazione del caviale di limone. Insomma, è bello non replicare, ma rielaborare con le caratteristiche del nostro microclima, del nostro territorio, un prodotto così, così bello e così esotico. Ripartiamo subito da qui. I consigli che vorreste sentirvi dare dagli amici, quelli veri. Sicuramente consiglierei un dottorato in Germania, soprattutto nei settori tecnici. Le dritte che non avete mai osato chiedere. Oggi un curriculum per l'estero deve essere soprattutto focalizzato sulla massima concisione e focalizzazione sulle proprie esperienze professionali. Le offerte di lavoro che non potrete rifiutare. Eurisvezia ci ha contattato per una richiesta di infermieri per l'ospedale universitario Karolinska di Stoccolma. E se cercate casa? Standard abitativi un po' diversi da quelli a cui siamo abituati. La cosa bella, spesso fai amicizia con i tuoi coinquilini, perché non sarai mai solo, ecco. A Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, vi guidiamo nel vostro futuro all'estero. Che ci andate per studiare, lavorare o fare impresa, noi saremo al vostro fianco. Sono Sergio Nava, vi aspetto il sabato alle 13.30 su Radio 24 e anche in podcast su radio24.it. Mangia come parli, mangia come parli. Siamo parliamo con Martina Liverani, direttrice editoriale di rivista Dispensa. Abbiamo già parlato, insomma, di questa rivista che mette insieme storie umane, storie gastronomiche. Fra l'altro, insomma, è un nostro, nel nostro piccolo, è un cavallo di battaglia il fatto di utilizzare, di evitare lo spreco alimentare in ogni sua forma. Quindi l'idea che la carta provenga dagli scarti alimentari non può che farci piacere, perché è una dimostrazione di grande sensibilità da questo punto di vista. Se ti dico Sicilia, che mi dici, Martina? Perché insomma, c'è un'esplosione di sapori, devo dire anche una contaminazione. Per esempio, non abbiamo ancora parlato del couscous, che insomma è un... Ecco, se mi dici Sicilia, avrei proprio parlato di couscous, perché è una storia meravigliosa. Ovviamente, se pensiamo che nel nostro immaginario il couscous è un prodotto tipico del Maghreb o comunque del Nord Africa, in realtà è un prodotto assolutamente tradizionale per una parte della Sicilia, che è quella della zona di Trapani, comunque la Sicilia occidentale. E proprio a San Vito Lo Capo tutti gli anni c'è, da oltre 20 anni a questa parte, un festival bellissimo che è il Couscous Fest, e quindi Sicilia veramente vuole dire tantissime cose, tantissimi sapori, tantissime storie, ed è una regione che, per chi fa il mio lavoro, quindi per chi cerca storie, è un bacino veramente inesauribile. Professoressa, che dobbiamo fare? Ci sentiamo presto? Quando... Me lo auguro. Complimenti Martina, complimenti naturalmente per la tua rivista e per insomma le idee nuove che ci fai leggere ogni 4 mesi. Bisogna prendersi il giusto tempo per le cose belle. Giusto. Ti sosteniamo. Grande rivista di cultura, di cultura. Beh sì, perché poi insomma il cibo è cultura popolare nel senso più profondo, è tradizione, è insomma il rapporto anche fra le generazioni che si tramandano le ricette, le riadattano. A questo proposito... Grazie Martina. Ciao Martina, siamo lasciati al tuo sabato mattina. Sì, ma rimani a mangiare, ascolta, a perché stiamo per fare bucatini, marsala, pane e pepe, che devo dire è una rivisitazione di uno dei tuoi piatti più tradizionali, perché io ho mangiato il pane, pepe e marsala, no? Esatto, con esatto, riso però. Esatto, pane, pepe nero, marsala, riso, è un classico del ristorante, del mio ristorante, per cui ho pensato di tradurlo su un bucatino, bucatini, marsala, pane e pepe. È molto semplice, in questo caso prepariamo le briciole di pane arrostite con una noce di burro, se vogliamo anche un po' di olio senza burro, insomma decidiamo quale dei due grassi preferiamo, le facciamo abbrustolire per bene, teniamo da parte queste nostre briciole molto croccanti, magari leggermente amare perché un po' spinte nella cottura, quindi un po' più scure nella doratura. Cosa facciamo? Cuociamo, consiglio di cuocere i bucatini con pochissima acqua, quindi non abbondante acqua salata, bucatini poi scolati al termine della cottura, quindi pochissima acqua in pentola, aggiungiamo il bucatino, naturalmente la pentola deve avere le dimensioni di un bucatino perché devono essere immersi in questa poca acqua. Appena comincerà a bollire l'acqua, i bucatini cominceranno a cuocere, prenderanno questa forma irregolare e più o meno ogni 3 minuti aggiungiamo un goccio d'acqua fino al termine della cottura. Termine della cottura avremo una salsa già fatta, creata con l'amido della pasta, quindi a mo' di riso, a mo' di risotto. Aggiungiamo un goccio di marsala che facciamo restringere, quindi per lasciare l'impronta di un marsala secco alla fine, quindi cominciare a dare quel tocco di Sicilia. Lasciamo mantecare leggermente, mettiamo una macinata di pepe nero alla fine quando il tutto è pronto, predisponiamo la nostra pasta in 4 piatti diversi perché il dosaggio più o meno facciamo 70 grammi di pasta testa, cosa dici Pier? Sì, 70 ci può andare bene? 70 per 10, 700, 70 grammi, no, dai, ma come si fa a fare 70 su un menù di 4 portate, guarda che tanta roba, perché poi ci sono le briciole di pane che cominciano ad arrivare a 80, poi c'è il marsala, per cui tutto viene completato per avere un 170. Menù corretto. 170. Quindi abbiamo detto, una volta mantecata col poco amido che è rimasto nella pentola, aggiungiamo un velo di olio, abbiamo detto il nostro marsala che abbiamo ridotto, la macinata di pepe, piazziamo nelle nostre fondine, perché a me i primi piatti piace metterli nelle fondine, e poi sopra cospargiamo con queste briciole di pane molto croccante. Assolutamente. Spazio News, vai! Allora, prima parlavamo delle arancine, e qui adesso invece parliamo delle arance. Produzione record di arance nel 2018, la Spagna è leader, la raccolta è la più elevata fra l'altro al 2010, Italia e Grecia sono sul podio, sapete che insomma c'è tutta una serie di prodotti, per esempio l'olio, ma in questo caso ovviamente le arance, nei quali poi è Spagna contro Italia contro Grecia. Quindi questo è il risultato della stagione, la raccolta di arance è top nel 2018 nell'Unione Europea, con i livelli più elevati dal 2010, il record spagnolo con il 56% del totale dell'Unione, ma poi subito dopo al secondo posto c'è l'Italia col 24% delle arance complessive. Mangiare al ristorante come sull'aereo, questa è un'idea curiosa di AirAsia, che ha aperto un locale a Kuala Lumpur, perché insomma sappiamo che nelle business class, soprattutto degli aerei, sui voli intercontinentali si può mangiare anche molto bene. Sappiamo che l'Italia, per esempio, insomma, ha avuto per il 10° anno consecutivo il titolo di Best Airline Cuisine, quindi complimenti agli amici di Alitalia. Insomma, AirAsia ha deciso di fare questa cosa, di aprire a Sant'An un ristorante che ripropone le pietanze che vengono apprezzate dai viaggiatori della compagnia low cost. Sembra fantastico. Un po' un mondo capovolto, però alla fine non so cosa dire su questo, però so che sulle compagnie aeree qualcosina in più sulla qualità è aumentata, perché è aumentato il fattore umano, per cui gli steward, le hostess che procedono a cucinare o a finire questi piatti preparati prima della partenza, devo dire che negli ultimi voli che ho preso c'è qualcosa in più di qualità, e il tutto sta nel fattore umano. Davide, tu hai mai protestato con le guide, con quelli delle guide, con i critici? No, anche perché ho sempre, immagino cosa tu voglia chiedermi, cosa vuoi. No, perché c'è una notizia che arriva dalla Francia, abbastanza clamorosa di uno chef francese che è stato privato di una stella e ha fatto causa alla guida Michelin e l'ha persa. Perdendola. Marc Veyra ha portato in tribunale la famosa guida rossa, ma alla fine, insomma, il giudice ha dato ragione alla guida. Il caso è stato anche molto mediatico, è diventato una sorta di Cheddar Gate, dal nome del formaggio cheddar. E insomma alla fine dovrà pagare anche le spese legali, e il cuoco stellato 69enne non aveva proprio, insomma, non gli andava bene. Il suo ristorante, la Maison de Bois, nelle Alpi dell'Alta Savoia, aveva perso questa guida, e alla fine insomma comunque... lui calcola che è un grande Marc Veyra, è un grande cuoco francese, lo vedi anche dal cappello, la sua particolarità, perché è un cappello nero, non è più una toque bianca, per cui molto controcorrente. E a proposito di guide, di monumenti dal punto di vista editoriale, la Treccani accoglie le DOP e le IGP nel patrimonio culturale italiano, e questo è veramente qualcosa di importante, anche di giusto che sia così, e ne parliamo con Mauro Rosati, direttore della Fondazione Quali Vita, per l'Atlante Quali Vita 2020. Allora, queste qui sono parole ormai entrate nell'immaginario di tutti, nel linguaggio di tutti, giustamente celebrate e accolte dalla Treccani. Sì, certo, 10 anni fa non era neanche pensabile parlare di cibo, di prodotti agricoli che poi sono diventati patrimonio culturale ormai riconosciuto dalla Treccani. Oggi siamo riusciti, come dire, in un'operazione importante di sistema a far raccogliere 860 prodotti italiani, 526 vini, 299 prodotti agroalimentari e 35 bevande spiritose, sarebbero gli alcolici, come patrimonio culturale del nostro paese, anche perché poi ci rappresentano quando andiamo in giro per il mondo attraverso i nostri piatti. Assolutamente, quindi è una sorta di celebrazione di una delle grandi eccellenze italiane. E ce ne saranno altre? Immagino che, insomma, 860 prodotti siano tanti, ma immagino che ci sia la fila per poter entrare all'interno di questa guida così prestigiosa, di questo Atlante, perché è un vero e proprio Atlante. Sì, sono i riconoscimenti europei, le DOP IGP, l'ultimo che abbiamo avuto è proprio l'olio Puglia IGP, che è stato riconosciuto in questi giorni. Ci sono altri prodotti che stanno cercando di essere certificati e riconosciuti come prodotti DOP IGP. Noi, si parlava di primati, l'Italia in questo è prima la Francia, prima anche la Spagna, e sono gli altri due paesi che contendono la nostra leadership di prodotti del territorio, ma sicuramente in questi ultimi anni, anche grazie alla cucina, siamo riusciti a imporre la nostra, diciamo, produzione agricola a livello mondiale. Siamo leader dell'esportazione della qualità, noi esportiamo circa 7 miliardi di questi prodotti di qualità, quindi credo che il lavoro fatto dai nostri agricoltori e poi ben cucinato dai nostri chef sia forse oggi l'emblema più importante della cultura italiana intesa in senso lato. Devo dire, è vero, confermo quello che dice Mauro, e confermo anche il fatto che bisogna essere concentrati su quello che sono i prodotti italiani prima ancora della recitazione della storia italiana, perché solo con il prodotto tracciato, col prodotto buono, col prodotto curato, puoi anche creare ricette nuove. Assolutamente. e fra l'altro posso dire, ho visto questi dati, ci sono 7 patrimoni UNESCO, 600 patrimoni storico-artistici, 150 itinerari e 200 eventi e feste della tradizione che si legano a questi prodotti, quindi insomma è quello che in qualche modo è anche logico, quasi scontato da dire, che è veramente la cultura dei monumenti, delle opere d'arte, del territorio si lega alla cultura di queste meraviglie enogastronomiche. Per cui complimenti, viva l'Atlante Qualivita e ci sentiamo presto per nuove voci da inserire all'interno di questo Atlante. Grazie a voi. Grazie, e adesso ci fermiamo, abbiamo ancora due ricette, abbiamo SOS. Ancora mille sorprese, SOS, aiuto, fra poco. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24, la passione si sente anche in podcast. Promo 24. Appuntamento alla Pipeline and Gas Expo 2020, The Utility Construction Show, l'unica manifestazione fieristica in Europa interamente dedicata ai comparti del midstream e delle reti distributive di gas, oil and water. Attrezzature, strumentazioni e prodotti per la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione delle pipelines e tecnologie dedicate alla gestione di gasdotti, oleodotti e acquedotti. Alla Pipeline and Gas Expo 2020 sono anche previsti convegni con relatori di fama internazionale dedicati al futuro del mercato del gas e del biogas e alle tecnologie del LNG anche nel comparto marittimo e dell'autotrazione. A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio 2020. Per info pgexpo.eu. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, terza ricetta a proposito di profumi di Sicilia, io andrei con la pasta spezzata, spaghetti di tonno e mandorle di noto. Anche qui è un'esplosione di sapore. Di sapore, di tecnica, di nuova tecnica, ma questa ricetta è molto semplice. Prendiamo naturalmente un buon tonno appena pescato fresco, facciamo dei filetti componendo poi con un giusto coltello affilato bene degli spaghetti di tonno che attorcigliamo, lasciamo su una placca. Spolveriamo con un po' di finocchietto selvatico, un po' di leggermente di pepe nero, schiacciato anche lui, e delle scaglie di sale grosso. Teniamo da parte questi spaghetti di tonno e invece in un pentolino che faremo scaldare con un goccio di olio aggiungiamo degli spaghetti spezzati, li facciamo tostare con una temperatura, con una piastra a induzione o su una fiamma abbastanza vivace, facciamo tostare fino a che non li doriamo per bene, quindi prenderanno da questa doratura, questi piccoli spaghetti rotti, prenderanno un profumo molto particolare, per cui iniziamo a bagnare con un po' di vino passito di Pantelleria, lo facciamo ridurre, aggiungiamo dei filetti di pomodoro che avremo preparato a parte, senza semi, senza buccia, aggiungiamo un goccio di acqua e cuociamo a mo' di riso, come a me piace fare, per cui rimane tutto molto più succulento, più legato anche, come si dice in gergo. Una volta cotta la nostra pasta, la togliamo dal fuoco, dalla fonte di calore, aggiungiamo una macinata ancora di pepe, possiamo a questo punto aggiungere un velo di olio di oliva e una colatura di alici. Prendiamo questa nostra pasta, la adagiamo in 4 fondine diverse, la facciamo, ascolta bene per, la facciamo intiepidire, sì. Ok? Facciamo intiepidire, per cui prende un profumo leggermente diverso rispetto a quando serviamo una pasta molto calda. Certo. Una volta che è intiepidita aggiungiamo il nostro nido di spaghetti di tonno sopra, e poi delle mandorle che grattugiamo con naturalmente una grattugia che sia di livello sopra alla fine, per cui questo profumo fresco di mandorla. Quindi la temperatura alla fine qual è? È una temperatura... Non è molto bollente? No, che va più sul tiepido freddo che caldo, per cui abbiamo questa base, immagina questi spaghetti spezzati molto irregolari nel piatto. Poi abbiamo il nostro tonno vivo, fresco, profumato che mettiamo sopra, e poi questa freschezza ed eleganza che la mandorla dà al piatto, perché la grattugiamo proprio alla fine. Per cui credo che sia un piatto che io dedico con tutto il mio cuore alla Sicilia e al mio amico che intervisteremo, che chiameremo fra poco in trasmissione. Che è Pino. Andiamo a Licata. Ciao Pino Cuttaia, come stai? Ciao a tutti, ciao Davide. Nummari, come stai? Bene. Nummari, tutto bene? Ci puoi dire cos'è questa parola? Ce la Numari. Puoi spiegare? Numari vuol dire dentro il mare, lo dice la parola stessa, ovviamente per chi è più dal sud magari più, però volevo che diventasse, ecco, un nome che ci appartiene, come ci appartiene il mare, come io vedo il mare, vedo questo Mediterraneo, che le terre sono unite, non divise, per cui all'interno di questo mare ci sono tanti saperi, in queste coste di paesi che hanno lo stesso paesaggio, però cambia la cultura di un luogo, però ecco, ci sono tanti saperi che l'innovazione secondo me lì è ferma e aspetta solo a noi cuochi che siamo ambasciatori di un territorio a riprenderceli. E tu hai fatto questo format che si chiama Numari, dove inviti, hai invitato anche me l'anno scorso, tornerò ancora a cucinare, e questo ti consiglio proprio, Piero, anzi lo inviteremo. Invitami. Pino, vuoi raccontarci l'ultima esperienza, cioè quella dell'anno scorso e quella futura, quella di quest'anno, come sarà, che tipologia, che approccio avrai quest'anno invece, sull'ingrediente, sulla terra? Sì, diciamo che sarà ovviamente sempre luogo come Licata, finché non diventerà poi nel tempo, mi piacerebbe, il mio sogno è quello di farlo itinerante, quello proprio di invitare i cuochi del Mediterraneo, per cui quando magari si pensa al Mediterraneo non ci viene mai in mente che, voglio dire, l'Istria fa parte del Mediterraneo, no? Oppure cioè come la Grecia, la Turchia, la Tunisia, ecco, dove i cuochi, che dico che oggi il cuoco contemporaneo è un po' la mamma, no? E che può interpretare un gesto che magari ormai non viene più tramandato tra madre e figlio, ma il cuoco ha comunque a portarlo avanti come eredità, come custode. Per cui l'idea di utilizzare la triglia, che è un pesce che ha tutto il Mediterraneo, però un gesto completamente diverso, fa sì che questo prodotto diventa un'altra cosa. Ecco, questo bello. Sono i saperi che Numari vuole mettere a disposizione. Va bene, vengo, mi fai poi la spatola a beccafico con caponata croccante? Basta un sì o no? Me la fai? No, la io fai? Ci farei dire, Pino, in due parole veloci, il tuo uovo di seppia, veloce, e poi ti lasciamo al tuo sabato. Ma poi voglio raccontare, perché lo dico sempre a tutti, come Davide è diventato esploratore della mia terra, perché ha fatto veramente un piatto straordinario utilizzando le pale di fichi d'India come canditura, no? Ecco, un siciliano la pala di fichi d'India la dà alle pecore, no? Perché la dà, cioè si mangia il frutto, lui ha utilizzato la pianta come espressione. Ecco, allora lì veramente c'è quel sapere che attraverso un cuoco, attraverso un gesto, ti cambia. Ecco, io oggi la palla di fichi d'India la vedo completamente diversa rispetto a come la vedevo prima. Per me è più importante la foglia e non il frutto, no, in questo caso. Grazie, guarda, io sono commosso da questo. Grazie, e soprattutto che lo dici qui in radio. Che uno chef che non ama viaggiare, secondo me, non è un grande chef, lo dico sinceramente. Cioè, la curiosità è un elemento fondamentale per uno chef. Davide ce l'ha anche Pino con questo uovo di seppia. Andate anche sul sito della Maglia a prendervi, insomma, tutte le informazioni necessarie. E noi ci vediamo presto, eh? Ci vediamo lì. Pino. Mezzo al mare. Complimenti per spatola tutto, compresa. Grazie. SOS Oldani, via! SOS Oldani. Alessandra da Massafra. Salve chef. A livello di sapore, il peperone rosso, giallo e verde sono equivalenti oppure vanno usati in maniera differente? Ma io direi che sono equivalenti, perché insomma cambia il colore, cambia la maturazione, però alla base il peperone, il profumo del peperone è quello. Io direi che si possono utilizzare col criterio giusto in tutte le preparazioni, dal dolce al salato, tutte e tre le tipologie. Se poi si vuole parlare anche di colori, messi assieme fanno un piatto un po' più allegro. Irene da Milano. Ciao chef, in cottura ho sempre visto sfumare le carni bianche con il vino bianco. Sfumarle con il rosso è troppo un azzardo che rischia di coprirne il sapore? No, devo dire, qui vado un po' controcorrente, Pierre. Il termine sfumatura, soprattutto nelle carni, io non la utilizzo più da tempo. Preferisco fare una cottura della carne dalla quale ottengo una buona salsa e poi la riduzione del vino, che sia bianco, rosso o quello passito, la faccio a parte, per cui miscelo le due cose alla fine, dove ottengo un risultato maggiore di gusto. E infine il ginevra alla verbania. Buongiorno chef, quando cuocio in forno una torta salata con la pasta sfoglia o la brisè, devo sempre bucarla in superficie? Beh, io farei la cottura sempre separata, perché l'interno delle nostre quiche, chiamiamo torte salate, ha una cottura e la pasta ne ha un'altra, quindi per cui io fodererei una teglia, si chiama cottura bianco, fodererei una teglia con la pasta, sopra adagerei della carta da forno, dei pesi che possono essere dei ceci o un po' di riso, farei cuocere per 2/3 questa torta, leverei i nostri pesi che mettiamo sopra e poi farcirei la nostra torta e farei la seconda cottura per pochi minuti, per il terzo che gli manca, per avere una torta cotta nel centro e soprattutto cotta nella pasta sotto. Dai, abbiamo 2 minuti per il dolce, gelato di pistacchio, pesto di finocchio e agrumi, ma io vorrei coinvolgere Nino Marino, che è il fondatore di Antichi Sapori dell'Etna. Io devo dire che ho avuto modo di assaggiare, anche mia mamma, devo dire che me l'ha fregati quasi tutti. Ciao Nino, come stai? Ciao, buongiorno a tutti, Nino. Bene, grazie. Avete queste materie prime che sono incredibili, dalle quali poi fate delle creme artigianali. Che fate esattamente, ce lo dici? Siamo creme spalmabili, facciamo i semilavorati, quindi la pasta per gelato, le granelle, il pesto di pistacchio, ottimo per condire la pasta, tutto questo chiaramente fatto a Bronte, territorio per eccellenza di pistacchio. È un po' la regina, no, delle città del pistacchio italiane, sì, Davide. Sì, in Italia è il paese dove si produce il pistacchio, sono circa 3.000 ettari ad oggi documentati e piantati, quindi dal 2009... abbiamo la DOP, quindi diciamo che il prodotto viene controllato. Ci sono circa 4.500 produttori e quest'anno è stata effettivamente un'ottima annata. Nino, vogliamo dare una bella notizia qui con noi alla radio, se c'è una possibilità? Il pistacchio deve essere verde o è un verde sbiadito, quello più naturale, o un verde più intenso, quello più naturale? Com'è? Straverde. È chiamato l'oro verde sia per il prezzo, ma è chiamato anche smeraldo qui, perché deve essere un verde forte, e quello di Bronte ha anche altre caratteristiche, stretto, lungo, e un viola, la copertura sopra della pellicina è viola tendente al nero, quindi anche nei colori esprime forza. Esatto, però c'è stato il momento in cui, quando il verde intenso dicevano non è pistacchio, e quello meno intenso fosse il pistacchio originale. Quindi adesso cosa possiamo dire? Che deve essere intenso? Pistacchio di Bronte deve essere intensissimo, un verde forte, acceso. Fantastico, allora l'ultima ricetta la dico in diretta con Nino, prendiamo una pasta di pistacchio veloce, con questa buona pasta di pistacchio componiamo il nostro gelato, e servirei 2 cucchiaiate di gelato di pistacchio con una base di pasta di pistacchio molto buona, con delle scaglie di sale, un'arancia tagliata a vivo, quindi senza buccia, solo la parte del cuore, e poi un po' di finocchio tagliato a cubettini fini, cosparso sopra, quindi finocchio, arancia, sale grosso e pistacchio. Beh, meraviglioso. Ma poi è la tua filosofia, che è quella di accoppiare spesso la verdura al dolce, sempre per quella cosa, io poi ti do contro, ma è un gioco, no? Esatto. Sempre per quella cosa, invece di trovare un equilibrio e di non esagerare con le calorie e anche proprio con l'abbondanza del gusto e dei sapori. È stato bellissimo, chef. Grazie Pierre, grazie a tutti e alla prossima. Alla prossima. Ciao, mangiata. Ciao.